TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Cinque Kalashnikov e più di 350 cartucce sequestrati a Gorizia, due arresti, fermato in Albania il presunto mittente. È deceduta la donna coinvolta ieri nello scontro tra un'auto e un SUV a Vivaro. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Iniziativa di solidarietà degli artigiani a favore delle imprese colpite dall'alluvione di un mese fa tra Isontino e Friuli orientale. Le politiche del comune di Udine riducono le diseguaglianze di genere. In città più donne, più anziane, ma tasso di occupazione inferiore agli uomini. A Trieste nuovi spazi per il programma regionale di screening mammografico. Negli ultimi 20 anni in Friuli Venezia Giulia oltre 1.100.000 esami. L'Università di Trieste studia in 3D le meduse del Mediterraneo e fa una scoperta rivoluzionaria nel campo della biologia marina. 12:31, buongiorno da Andrei Marušić e Rita Micoli. Partiamo subito in questa edizione meridiana del giornale radio dalla cronaca con un sequestro di armi nel Goriziano dai contorni ancora da chiarire. Sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza mentre cercavano di introdurre in Italia, dal valico di Sant'Andrea a Gorizia, armi automatiche. È scattato subito l'arresto per due albanesi e in una seconda fase anche del presunto mittente e gestore dell'arsenale in Albania. Le armi, 5 Kalashnikov, erano occultate all'interno di un minivan con targa albanese nel quale viaggiavano 5 cittadini albanesi. A destare il sospetto dei finanzieri, nervosismo di due occupanti, i due autisti del mezzo, durante il controllo dei documenti. È seguita un'attenta perquisizione del mezzo e del bagagliaio nel quale si trovava un borsone insolitamente pesante. Al suo interno sono stati scoperti 3 fucili, altri 2 erano occultati tra la scocca e il rivestimento interno della vettura. In totale, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno sequestrato 5 fucili d'assalto Kalashnikov sprovvisti di calcio e 360 cartucce calibro 7,62. A gestire le operazioni militari della compagnia di Monfalcone e la Polizia Economico-Finanziaria di Trieste. I due albanesi sono stati arrestati in flagrante per violazione della normativa sulle armi. Le ulteriori indagini hanno consentito alle autorità albanesi di arrestare a Hot, cittadina al confine con il Montenegro, il presunto responsabile dell'invio delle armi. Sulla possibile destinazione dei Kalashnikov sta indagando la direzione distrettuale antimafia di Trieste. Ancora la cronaca, perché è deceduta la donna di 54 anni coinvolta ieri nell'incidente frontale sull'ex strada provinciale 53 tra Vivaro e la frazione di San Foca nel Pordenonese. Carmen Benvenuti di Montereale Valcellina era alla guida dell'utilitaria che si è schiantata contro un SUV, è stata rianimata a lungo sul posto prima di essere trasferita in elicottero all'ospedale di Udine. Le sue condizioni risultavano però da subito disperate. Restano 3 feriti che non sono invece in pericolo di vita: una donna di 53 anni, un bambino di 2 anni e una ragazza di 17. Non sono gravi e sono ricoverati a Pordenone. È un 31enne nativo di Avellino ma residente a Ronchi dei Legionari. La vittima dell'incidente è avvenuto ieri intorno alle 20 lungo viale della Serenissima nel centro isontino. Cristian Aufiero è morto sul colpo dopo essere caduto dalla moto di grossa cilindrata. Dopo l'impatto l'uomo ha perso il casco finendo proiettato a una 50 di metri di distanza. È stato trovato privo di vita all'altezza dell'incrocio con via della Cascata. La moto era un centinaio di metri più avanti. Sul posto i sanitari del 118 con elicottero, ambulanza e automedica. Inutili i tentativi di rianimazione. La procuratrice capo di Trieste, che si è insediata a maggio, da allora ha seguito diversi casi di cronaca nel capoluogo regionale, l'ultimo in ordine di tempo, quello dell'evasione del detenuto pluripregiudicato dal coroneo 2 giorni fa. Sentiamola. Sono stati mesi intensi, risponde col sorriso ma con sincerità Patrizia Castaldini, capo della Procura di Trieste, arrivata appena lo scorso maggio, ferrarese d'origine, una vita nella magistratura, di realtà difficili ne conosce, pubblico ministero a Reggio Calabria, procuratrice per 7 anni a Nuoro, la provincia col maggior numero di omicidi. A Trieste, città di confine, con la questione migratoria in primo piano, il caso Resinovic che ha ereditato e poi tanti fatti di cronaca, basta pensare all'ultima evasione dal carcere. Procuratrice, siamo con lei qui in ufficio. Non ha da annoiarsi neanche a Trieste. Assolutamente no. C'è un'attività continua e una procura estremamente coesa. Quest'anno raggiungiamo il pieno organico di 12 unità di magistrati. Mai successo prima? Mai successo prima. Questo comporta la possibilità di ciascuno di noi di poter affrontare il lavoro con una maggiore serenità, ovviamente d'animo. Abbiamo colleghi giovani che sono stati affiancati a colleghi molto più anziani di esperienza e quindi ciascuno porta il proprio valore aggiunto, l'esperienza da una parte e dall'altra l'entusiasmo di chi comincia a svolgere questa attività. Di questa evasione dal carcere del Coroneo, di un soggetto definito pericoloso che sembra dovesse essere espulso nelle prossime ore, che cosa ci può dire? Un fascicolo è stato aperto? C'è un'attività di indagine in corso, è stato aperto un fascicolo per evasione e ovviamente sarà accertata tutto quello che è successo. Una città, quella di Trieste, in cui lei dice più che altrove c'è un forte senso di legalità, lo nota anche negli incontri pubblici, per esempio con gli studenti, penso ad esempio la scorsa settimana a Udine. Mi domando che pressione avete avuto, per esempio, sul caso della tragedia di Muggia di appena un mese fa, dove un bambino è stato ucciso dalla mamma e un fascicolo era stato aperto in procura ma è stato anche archiviato. Dunque, sicuramente Trieste è una città dove posso riscontrare una esigenza, un senso profondo di legalità e di giustizia. Questo l'ho visto, l'ho riscontrato in tutti i momenti pubblici in cui ho partecipato. Sicuramente il fatto di Muggia ha creato un grave senso di profonda tristezza da parte di tutti, anche noi operatori e le forze dell'ordine comprese, ovviamente. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nello scorso mese di novembre l'inflazione ha registrato un nuovo rallentamento. A Trieste un meno 0,8% rispetto ad ottobre e un più 1,1% rispetto a novembre 2024. Nel precedente mese di ottobre 2025 la variazione congiunturale, quindi rispetto a settembre, era dello meno 0,1% e la tendenza al più 1,5%. Il calo più consistente nel capoluogo regionale è quello registrato dai servizi ricettivi e di ristorazione, 6 punti in meno rispetto al mese di ottobre, anche se l'aumento rispetto a un anno fa è del 3,4%. In un anno sono cresciute le spese per alimenti e bevande, oltre 14 punti per il caffè, il tè, il cacao e quelle dei servizi. A Udine la variazione congiunturale è del meno 0,1% rispetto al meno 0,2% di ottobre, mentre quella tendenziale a ottobre è passata dal 1,7% al 1,6%. Sostegno agli imprenditori e ai lavoratori colpiti dall'alluvione di un mese fa tra Friuli Orientale e Isontino. A prestarla oggi è EBIART, l'ente bilaterale artigianato del Friuli Venezia Giulia, la illustra il presidente Dario Bruni. Dario Bruni, presidente di EBIART, l'ente bilaterale degli artigiani del Friuli Venezia Giulia. In cosa consistono questi aiuti? Chi aiuterete e come farete a non sovrapporvi, diciamo, agli aiuti di Protezione Civile Regione? Noi come Consiglio d'amministrazione abbiamo messo a disposizione delle risorse, naturalmente da ampliare dovessero arrivare più richieste d'aiuti. Per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici, daremo un contributo per il ripristino dei mezzi propri per recarsi al lavoro, parteciperemo ai danni degli immobili e soprattutto anche degli arredi. Per le imprese invece daremo, si ipotizzava, un aiuto per quello che è il danno subito dell'immobile aziendale, gli autocarri e gli automezzi di lavoro e anche le attrezzature. Però adesso stiamo raccogliendo quelle che possono essere le richieste proprio di aiuto in numeri e in quantità dei danni. Il plafond è superiore ai 50.000 euro stanziati? Ma attualmente in Consiglio di amministrazione abbiamo aperto una posta bilancio, ma abbiamo la disponibilità finanziaria di aumentarla anche notevolmente. Il tutto, per rispetto anche del Consiglio di amministrazione, essendo un ente paritetico, dovrà essere valutato una volta ricevute le richieste di aiuto, ma abbiamo capacità finanziaria per aumentarle, per coprire più soggetti possibili coinvolti. Le imprese non sono poche, perché sono quasi 600 imprese nei 24 comuni, però non è detto che tutte queste imprese siano state danneggiate dall'evento del 17. Cormos, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Saranno più di 2.000 i soci Coldiretti presenti giovedì 18 dicembre alla grande manifestazione di Bruxelles insieme alle più importanti organizzazioni europee. Ci saranno anche le delegazioni del Friuli Venezia Giulia. Coldiretti Pordenone ne avrà una di 60 agricoltori a manifestare contro l'impostazione del trattato di libero scambio Mercosur, considerato privo del principio di reciprocità nelle regole sulla qualità del cibo importato e che, dice Coldiretti, consentirebbe l'ingresso in Europa di alimenti prodotti con metodi e strumenti proibiti da decenni in Italia. L'Europa, inoltre, sottolinea Coldiretti, taglia 90 miliardi all'agricoltura per destinarli al riarmo, una scelta che, ricorda l'associazione, secondo il Censis, incontra la contrarietà del 76% degli italiani. APT, l'azienda del trasporto pubblico locale di Gorizia, che ha chiuso l'ultimo esercizio con quasi 2 milioni di euro di utili, un risultato raggiunto grazie all'impegno di lavoratrici e lavoratori, dice la FIT CISL del Friuli Venezia Giulia, che chiede una redistribuzione degli utili non tra i soci dell'azienda, ovvero i comuni, ma a favore proprio dei lavoratori e per investimenti non più rinviabili per la sicurezza degli operatori del trasporto pubblico, ribadisce il segretario generale regionale Antonio Pittelli. Bilanci di fine anno per le aziende, ma anche per le amministrazioni. In questo caso, bilancio di fine anno per il Consiglio regionale, lo ha seguito per noi Daniele Letic, che ci aggiorna in diretta. L'anno che sta per aprirsi segnerà il mezzo secolo del terremoto del 1976, un vero spartiacque per la storia del Friuli. Un anniversario importante che vedrà il Consiglio regionale, lo ha spiegato il presidente Mauro Bordin nel tradizionale incontro per tracciare il bilancio di fine anno, in prima linea con iniziative e celebrazioni a partire da una seduta straordinaria dell'Assemblea il 6 maggio, a cui è l'auspicio potrebbe partecipare anche il presidente della Repubblica Mattarella. Nel raccontare l'anno che va a chiudersi, il punto più importante è ovviamente quello delle risorse stanziate. 8 miliardi di euro in tutto, 6,5 solo nella legge di bilancio, in crescita dell'8% rispetto al 2024 e del 21% rispetto al 2023. La parte del leone, al solito, per la sanità, a cui vanno 3,7 miliardi. Poco più di 2 milioni, invece, i fondi erogati direttamente dal Consiglio alle associazioni attive sul territorio, con oltre 500 beneficiari. Quanto all'attività legislativa, i progetti di legge presentati sono stati 32, 20 quelli approvati. Solo un quinto del totale, 4, erano di iniziativa del Consiglio, segnale sempre, del sempre più marcato sbilanciamento istituzionale a favore della Giunta. I due provvedimenti più importanti, ricordati da Bordin, la legge firmata dall'assessore Rosolain sullo sviluppo e l'attrattività delle imprese e il codice del commercio e del turismo. Ma dell'attività del Consiglio è composta anche da quella degli organi di garanzia, come l'Osservatorio Antimafia, il cui focus ha riguardato soprattutto i traffici illeciti che attraversano la regione, e il Garante dei detenuti, con il presidente Enrico Sbriglia, che ha posto l'accento sulla situazione critica, anche in Friuli Venezia Giulia, dell'edilizia penitenziaria e della carenza di personale. Grazie Daniele, noi invece passiamo al meteo. Cielo da nuvoloso ha coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11. Trieste 12 gradi, Gorizia 9,5, Udine 9, Pordenone 10,5. A Tolmezzo, Tarvisio e Forni di Sopra 4 gradi, sul Piancavallo 5, a Sappada 0 gradi. Montelussari 2,5 gradi, mentre sullo Zoncolan 1 grado, a Grado 10, a Lignano invece 9 gradi. Ora le previsioni dell'ARPA. Oggi cielo in prevalenza nuvoloso, solo in tarda serata saranno possibili prime deboli piogge sparse a partire da sud. Udine ha presentato il primo bilancio di genere, numeri e politiche per ridurre le disuguaglianze. Sentiamo. Ci sono politiche che hanno impatto diretto sulla qualità della vita delle donne, come investire 214.000 euro nel centro antiviolenza comunale che ha registrato a Udine nel 2024 un aumento delle richieste di emergenza e un incremento del 66% dell'accoglienza in casa rifugio. Ci sono poi politiche con effetti indiretti sulla qualità della vita delle donne, come i 5,5 milioni di euro investiti nei servizi per la prima infanzia, consentono una maggiore partecipazione al mercato del lavoro. Ci sono infine delle spese che in un bilancio comunale sono ancora classificate come neutre. Per Udine circa il 40%, 86 milioni di euro. Un impatto sulla vita delle persone ce l'hanno, ma mancano i dati per valutarlo. In un salone del popolo pieno di donne, dipendenti comunali e partecipanti ad associazioni e realtà territoriali, la Giunta udinese ha presentato il bilancio di genere comunale. permette di rileggere le scelte politiche e riclassificare il bilancio economico 2024 in base all'impatto che ha avuto sul superamento delle disuguaglianze. Con questo bilancio di genere siamo tra i primi a rendere evidente come il lavoro quotidiano del comune incida concretamente sulla qualità della vita delle donne, ha dichiarato il sindaco Alberto Felice De Toni. L'analisi parte dal contesto demografico e sociale di una città fatta in maggioranza di donne, quasi il 53%, in cui il 48% dei nuclei familiari è fatto da una persona sola e talvolta più a rischio marginalità. Un capoluogo in cui il tasso di istruzione delle donne è più elevato rispetto a quello degli uomini, di 12 punti percentuali, ma dove il tasso di occupazione femminile è di 13 punti percentuali inferiore. La sfida, rimarca l'assessore udinese alle pari opportunità, Arianna Facchini, è proprio meglio analizzare le spese considerate neutre e trasformarle in politiche strutturalmente orientate alla parità. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Inaugurati oggi nell'azienda pubblica di servizi alla persona ITIS di Via Pascoli a Trieste gli spazi ambulatoriali e di segreteria del programma regionale di screening mammografico. La nuova sede sostituisce la precedente collocazione nel comprensorio di San Giovanni. Allestita anche una mostra temporanea del pittore triestino Paolo Cervi Kervischer. Lo screening mammografico permette la diagnosi precoce del tumore al seno individuando anomalie prima dei sintomi, il che riduce significativamente la mortalità fino al 30-40% per le donne tra 50 e 69 anni e rende le cure meno invasive e più efficaci. A livello regionale negli ultimi 20 anni sono stati eseguiti oltre 1.100.000 esami di mammografia di screening con 280.000 donne prese in carico. L'adesione al programma ha raggiunto il 77,7% che colloca il Friuli Venezia Giulia al terzo posto in Italia e l'estensione degli inviti copre il 100% della popolazione target, ovvero le donne tra i 45 e i 74 anni. Cambiamo decisamente argomento. Dal 2022 i parenti delle vittime dei crimini compiuti dai nazisti dopo l'8 settembre possono chiedere un risarcimento allo Stato italiano, che si rivarrà poi sulla Germania. Diversi procedimenti sono arrivati a sentenza, tra cui quello sull'eccidio di Malga Pramosio in Carnia. Ne abbiamo parlato a Buongiorno Regione. 2.800.000 euro è il risarcimento riconosciuto dal Tribunale di Trieste ai parenti di 14 delle 52 vittime dell'eccidio della Valle del But, in cui nel luglio del 1944 le truppe naziste uccisero decine di civili. Se la sentenza uscita da poco diventerà definitiva, i parenti delle vittime potranno attingere al fondo di 60 milioni stabilito da una legge del 2022. Una questione che riguarda lo Stato italiano, ma anche quello tedesco, in quanto responsabile storico di quei fatti. L'avvocato Andrea Sandra. La causa viene fatta contro la Germania perché stiamo parlando di fatti commessi appunto dal Terzo Reich, dall'esercito nazista sul territorio italiano o comunque contro cittadini italiani. Però il pagamento è dato dal Ministero delle Finanze italiano. L'Italia, una volta pagati i risarcimenti, potrà rivalersi sulla Germania. Le sentenze che sono uscite finora non sono tantissime, su un totale di 1.500 su tutto il territorio italiano. Alcune sono favorevoli, come appunto quella della Malga Pramosio, altre invece sono di rigetto. Quindi è una causa vera e propria, bisogna fare molta attenzione quando si redigono gli atti. Chi intenda fare causa dovrà innanzitutto dimostrare il grado di parentela con le vittime, che non sono solo le persone uccise, ma comprendono anche quelle fatte prigioniere dai tedeschi, e poi documentare i crimini perpetrati. I risarcimenti possono essere di decine di migliaia di euro. Quello di Malga Pramosio, nella Valle del But, ammonta a 200.000 euro per ogni vittima. Ma dimostrare i danni non è sempre semplice e ci sono questioni su cui le posizioni sono divergenti, come quella degli internati militari. Siamo un po' rimessi alla discrezionalità del giudice e anche sul tema prigionieri di guerra, ecco, anche su questo c'è dibattito, perché noi riteniamo che non lo sia, l'Avvocatura dello Stato invece sì. Crediamo invece che lo status di internato militare fosse proprio per distinguere i prigionieri italiani da quelli che erano invece i prigionieri, diciamo così, classici. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Elena Bulfone, presidente della Fondazione Progetto Autismo FVG, il personaggio dell'anno 2025 del Friuli Premio, che è stato consegnato dall'associazione culturale Roundtable nel corso della cerimonia che si è svolta a Udine nella sede di Civibank. Ad attribuire il riconoscimento è il risultato di un sondaggio sui social aperto per un mese tra novembre e dicembre, che con più di 1800 preferenze su oltre 5000 voti espressi ha scelto la vincitrice nella cinquina dei finalisti. Gli altri candidati erano il fotografo e attivista dell'ambiente Aran Cosentino, fratello Adriano Baldo, educatore e direttore dell'Istituto Bertoni di Udine, l'artista Giorgio Celiberti e Davide Michalic, presidente della squadra di basket UEB Gesteco Cividale. Al via la manutenzione della Roggia Mussa tra Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento. Il consorzio di bonifica Cellina Meduna ha consegnato i lavori dopo 2 anni di progettazione, richieste di autorizzazioni. L'ente irriguo agisce con delega della regione, che ha stanziato fondi per 200.000 euro per il completamento del cantiere. L'intervento si concluderà entro la primavera e archivierà anche il braccio di ferro sulla pulizia della roggia dopo che il comune di Casarsa ha emesso un'ordinanza sindacale per imporre al consorzio una manutenzione immediata e non in linea con i regolamenti e la normativa di riferimento. Ricordano il presidente e il direttore del consorzio Walter Colussi e Massimiliano Zanet. La tutela dell'ambiente e della biodiversità sono ritenuti prioritari rispetto all'aspetto idraulico, fa sapere il consorzio, che ricorda di aver affrontato la questione delle recinzioni e i cancelli realizzati nel tempo lungo la roggia Mussa, ma non rispettosi delle distanze obbligatorie. È una scoperta che cambia il modo di guardare alle meduse, più in generale all'evoluzione degli animali marini. Un team internazionale guidato dall'Università di Trieste e dall'OGS ha individuato nella medusa Cotyloris tuberculata un apparato digerente articolato simile a quello di organismi più complessi, grazie ad una ricostruzione tridimensionale del sistema gastrovascolare. Ne abbiamo parlato con il professor Massimo Avian dell'Università di Trieste per capire perché questo risultato è così rilevante nello studio dell'evoluzione degli invertebrati. In realtà sono delle meduse che hanno modificato il loro digerente, in quanto non hanno più una sola bocca centrale, ma hanno un reticolo di canali che terminano in moltissime minuscole aperture. Si pensava fossero tutte bifunzionali, cioè l'acqua e il cibo entra ed esce attraverso le stesse aperture. In realtà si è visto che in entrambe le specie che noi abbiamo analizzato i canali sono come strozzati a 8, metà delle quali funziona per l'ingresso e metà delle quali funziona per l'uscita dell'acqua e residui alimentari, e quindi tutte le aperture sono specializzate. Dal punto di vista evolutivo, cosa significa trovare un sistema così complesso in una medusa? Il mondo animale è pieno, infiniti casi di quelli che vengono chiamati convergenze evolutive o adattative, dove soluzioni simili vengono ottenute in maniera indipendenti gruppo per gruppo. Cruciale per la scoperta la ricostruzione 3D del sistema digerente, ma anche la collaborazione con Elettra e con le rilevazioni tomografiche. Senza di loro chiaramente non avremmo potuto fare niente. Prima abbiamo creato un calco in resina delle reticoli di canali interni, poi sono stati loro a ovviamente scannerizzare tutto e creare una ricostruzione digitale, potendo misurare, contare tutto quello che occhio non si sarebbe potuto fare. Siamo agli spettacoli. Cosa ci svela il futuro di cui tanto si parla? Ce lo racconta Giorgio Panariello, comico, cabarettista, imitatore, attore e conduttore televisivo italiano, che stasera torna live al Teatro Rossetti di Trieste con lo spettacolo dal titolo «E se domani il sipario si alza alle 21». Giorgio Panariello piomberà sul palco dopo un viaggio immaginario nel futuro. Che cosa ha visto che noi ancora neppure immaginiamo? Lo abbiamo chiesto a lui. Delle cose meravigliose, quello che racconto non è fantascienza, ma si parla comunque di intelligenza artificiale, si parla di robot, si parla di auto che volano, si parla di tante cose delle nuove proteine, tutte le proteine derivanti dagli insetti, cosa mangeremo nel futuro. tutte cose di cui già si sta parlando. Non è un racconto alla Blade Runner, ma è piuttosto un racconto a come saremo domani, ecco, una cosa del genere. Alla fine saluterà il pubblico dicendo: il futuro non è quello che troverai, ma quello che porterai con te. Lei, Giorgio, personalmente, cosa si porta dal passato, dal presente e nel futuro? Io cito sempre una frase di Pierangelo Bertoli, no? Che dice: con un piede nel passato e lo sguardo dritto aperto nel futuro. Cioè bisogna avere la nostra memoria, avere i nostri ricordi, le nostre cose, i nostri affetti, le cose che ci piacciono, le nostre passioni, e portarceli dietro fino a che è possibile. Infine parliamo di Rai. Il 19 dicembre sarà protagonista su Rai Play con la nuova serie Tutta Scena. Si parla di giovani che vogliono diventare attori di musical. Allora Giorgio, invece di andare nel futuro, torniamo nel passato. Lei ha sempre sognato di lavorare nello spettacolo. So che ha iniziato dalle TV private, ma se avesse potuto, voluto fare una scuola di recitazione. Ma sai, avevo pochi mezzi anche per fare scuola normale, figurati anche la scuola di recitazione sarebbe stata una spesa in più. Naturalmente una palestra alla vita, tutte le cose che ho visto quando ho cominciato, avevo come idolo Sabani perché facevo le imitazioni, poi ho cominciato a seguire Roberto Benigni, poi Verdone, tutta questa gente che mi ha influenzato. Quindi diciamo che la mia scuola è stata un po' quella, però non ho niente in contrario con chi può, che vuole studiare per diventare attore, purché non mi si dica: sai, mi sto iscrivendo a una scuola per comici, che quella secondo me non esiste proprio. Cioè la comicità è una cosa che tu non impari, la comicità è una cosa che tu hai o non hai, cioè è un'indole. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Roberto Cavallari e Samuel Montalto. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, da Andrei Marucci, c'è Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.